Radio 24 Reportage. Tra i capannoni ricostruiti della Bassa, a 5 anni dal sisma, le aziende sono più forti di prima. Di Raffaella Calandra. La torre dell'orologio, dove hanno certamente numerato tutti i mattoni, ma che temo che non vedremo tanto presto riedificata. Ecco, per i finalesi credo che la torre dell'orologio, come del resto anche il castello, sia un po' il simbolo della ricostruzione. Prima delle case e delle chiese, in Emilia hanno ricostruito i capannoni e ora, 5 anni dopo il terremoto, le aziende sono più forti di prima. Qui dove, in quel maggio di scosse e lutti, la parola d'ordine fu tenere botta, rimboccarsi le maniche e ripartire tutti insieme. Nei primissimi lavori di smaltimento del materiale che era crollato, vi era ad esempio mio padre, aiutato da alcuni dei nostri dipendenti. Abbiamo uno dei nostri ragazzi che addirittura si è fatto tatuare la data del 29 maggio, accompagnato da una chiave da metalmeccanico. Nel senso, c'è questo spirito di assoluto matrimonio verso l'azienda, del quale noi andiamo anche molto fieri. E come in ogni matrimonio, insieme sia nella buona che nella cattiva sorte, sono sempre stati titolari e dipendenti della BBG, azienda del biomedicale di Mirandola, ora che si tagliano i nastri della nuova sede, costata 5 milioni, come insieme in quel drammatico 29 maggio 2012, quando il crollo del tetto uccise uno dei fondatori e 2 dipendenti, 3 delle 28 vittime, ammazzate dalla volontà di tornare subito al lavoro e da perizie che, come ricorda Paola Busoli, dell'altro socio, davano il via libera dopo le prime scosse. Ma per questo crollo, come per quello della Emotronics, le inchieste non hanno accertato nessuna responsabilità. Abbiamo chiuso l'azienda dal 21 fino al 28. Il 28 è arrivata la terza e ultima perizia, che segnalava che tutto era a posto e quindi potevamo riprendere in totale tranquillità. Il 28 dunque abbiamo richiamato tutti i nostri ragazzi a lavorare e purtroppo il 29 alle 9 di mattina, quindi un'ora dopo aver aperto il capannone, è accaduto quello che sappiamo, nel senso la scossa da 5.9 che ha fatto crollare BBG nel giro di 7 secondi. Abbiamo avuto anche 3 vittime. Uno dei 3 soci fondatori dell'azienda, l'altro invece era uno degli operai storici di BBG e la terza vittima era un ragazzo che ci stava aiutando in qualche lavoro di tinteggiatura ed era venuto proprio quel giorno perché appunto era il giorno in cui avevamo riaperto. All'interno ora di BBG, come della controllata RB, il terremoto è stato l'occasione anche per un rinnovamento generazionale e per forti investimenti in innovazione, tradotti nell'uso di una avveniristica stampante 3D e in tempi di produzione calcolati in un paio di secondi. Questo è un grosso fiore all'occhiello della società RB, perché non ci sono altre aziende che realizzano questi stampi. Uno di questi stampi è stato richiesto da una nota società del settore del packaging con tempi ciclo da 2,2 secondi. Cioè tempi estremamente brevi, quindi più produzione. In che modo il terremoto ha rappresentato anche una carica, un'energia positiva per far sì che queste aziende di queste realtà abbiano avuto la capacità di produrre come prima e meglio di prima in soli 5 anni? Sicuramente non ci si poteva fermare. Il terremoto è stata una parentesi negativa. Abbiamo voluto dimostrare che grazie alla nostra capacità che parvietà saremmo riusciti a ottenere qualche cosa in più dal terremoto. E comunque oggi, visitando le nostre aree industriali, vediamo fabbriche tutte nuove, tutte ovviamente antisismiche e in alcuni casi anche fabbriche più importanti in termini di metri quadri coperti. E questa è una conferma che l'imprenditore non si è voluto arrendere. Con Stefano Foschieri, ora direttore generale di RB, ci eravamo conosciuti 5 anni fa, davanti alle macerie della Euroset, di cui era manager, quando di fronte ancora si cercavano i corpi dei 4 operai morti sotto il capannone dell'Emotronics, che ha dovuto fare i conti poi anche con l'alluvione, ma ha comunque confermato e anzi consolidato il proprio fatturato, eppure le relazioni con l'estero. Ancora una volta c'è una doppia velocità anche in questa ricostruzione, se nei centri storici infatti le piccole aziende e i negozi fanno ancora fatica, per colpa anche di una ricostruzione più lenta, nel distretto industriale i motori sono invece a 1000.

chi viene nel territorio sa che il tabarro, no? Questo mantello che i vecchi di una volta usavano a portare e che appunto durante l'inverno ti avvolgeva completamente, no? Per dare una connotazione molto territoriale di questo prodotto. Gin che nasce fra le rive del fiume Panaro e del Secchia. Oltre a questo abbiamo fatto anche due vermouth, un vermouth al mallo di noci e un vermouth all'aceto balsamico. Chi, la famiglia di Modena che non ha una acetaia nelle proprie cantine o nei propri soffitte, e pertanto abbiamo aromatizzato questo vermouth con questo prodotto tipico della nostra provincia. Legati alla terra ma capace di guardare oltre l'orizzonte, ed è per questo che ora, 5 anni dopo quel sisma che l'aveva colpita nel suo cuore più produttivo, la Bassa si è rialzata insieme ai suoi capannoni più grandi e più sicuri. Ed è per questo che nessuno come loro comprende il desiderio di chi a Norcia, ad Amatrice o a Castelluccio ora lotta per non dover partire. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.